la notte di Natale, il buon augurio del presepe. Meditazioni tratte dal volume omonimo a cura di Paola Carelli, edizioni Terra Santa. Allestimento di Mara Miceli, con la viva voce del Santo Padre. Una madre e un padre in fuga. Angelus, 29 dicembre 2013. In questa prima domenica dopo Natale, la liturgia ci invita a celebrare la festa della Santa Famiglia di Nazaret. In effetti, ogni presepio ci mostra Gesù insieme con la Madonna e San Giuseppe nella grotta di Betlemme. Dio ha voluto nascere in una famiglia umana. Ha voluto avere una madre e un padre, come noi. E oggi il Vangelo ci presenta la Santa Famiglia sulla via dolorosa dell'esilio, in cerca di rifugio in Egitto. Giuseppe, Maria e Gesù sperimentano la condizione drammatica dei profughi, segnata da paura, incertezza, disagi. Purtroppo ai nostri giorni milioni di famiglie possono riconoscersi in questa triste realtà. Quasi ogni giorno la televisione e i giornali danno notizie di profughi che fuggono dalla fame, dalla guerra, da altri pericoli gravi, alla ricerca di sicurezza e di una vita dignitosa per sé e per le proprie famiglie. In terre lontane, anche quando trovano lavoro, che non sempre i profughi e gli immigrati incontrano accoglienza vera, rispetto, apprezzamento dei valori di cui sono portatori. Le loro legittime aspettative si scontrano con situazioni complesse e difficoltà che sembrano a volte insuperabili. Perciò, mentre fissiamo lo sguardo sulla Santa Famiglia di Nazaret, nel momento in cui è costretta a farsi profuga, pensiamo al dramma di quei migranti e rifugiati che sono vittime del rifiuto e dello sfruttamento, che sono vittime della tratta delle persone e del lavoro schiavo. Ma pensiamo anche a altri esilati. Io li chiamerei esilati nascosti. Quelli esilati che possono esserci all'interno delle famiglie stesse, gli anziani, per esempio, che a volte vengono trattati come presenze ingombranti. Molte volte penso che un segno per sapere come va una famiglia è vedere come si trattano in essa i bambini e gli anziani. Gesù ha voluto appartenere ad una famiglia che ha sperimentato l'esilio, perché nessuno si senta escluso della vicinanza amorosa di Dio. La fuga in Egitto a causa delle minacce di Erode ci mostra che Dio è là dove l'uomo è in pericolo, là dove l'uomo soffre, là dove scappa, dove sperimenta il rifiuto e l'abbandono. Ma Dio anche è là dove l'uomo sogna, spera di tornare in patria, nella libertà, progetta e sceglie per la vita e la dignità sua e dei suoi familiari. Quest'oggi il nostro sguardo sulla Santa Famiglia si lascia attirare anche della semplicità della vita che essa conduce a Nazareth. È un esempio che fa tanto bene alle nostre famiglie, le aiuta a diventare sempre più comunità di amore e di riconciliazione, in cui si sperimenta la tenerezza, l'aiuto vicendevole, il perdono reciproco. Facciamo posto a Gesù che viene. Udienza generale, 17 dicembre 2014. Ciascuna famiglia cristiana, come fecero Maria e Giuseppe, può anzitutto accogliere Gesù, ascoltarlo, parlare con Lui, custodirlo, proteggerlo, crescere con Lui e così migliorare il mondo. Facciamo spazio nel nostro cuore e nelle nostre giornate al Signore. Così fecero anche Maria e Giuseppe, e non fu facile. Quante difficoltà dovettero superare. Non era una famiglia finta, non era una famiglia irreale. La famiglia di Nazareth ci impegna a riscoprire la vocazione e la missione della famiglia, di ogni famiglia. E come accade in quei 30 anni a Nazareth, così può accadere anche per noi. Far diventare normale l'amore e non l'odio. Far diventare comune l'aiuto vicendevole, non l'indifferenza o l'inimicizia. Non è un caso, allora, che Nazareth significhi colei che custodisce, come Maria che, dice il Vangelo, custodiva nel suo cuore tutte queste cose. Da allora, ogni volta che c'è una famiglia che custodisce questo mistero, fosse anche alla periferia del mondo, il mistero del Figlio di Dio, il mistero di Gesù che viene a salvarci è all'opera e viene per salvare il mondo. E questa è la grande missione della famiglia, fare posto a Gesù che viene. Accogliere Gesù nella famiglia, nella persona dei figli, del marito, della moglie, dei nonni, che Gesù è lì, accoglierlo lì, perché cresca spiritualmente in quella famiglia. Che il Signore ci dia questa grazia in questi ultimi giorni prima del Natale. Grazie. Avete ascoltato La notte di Natale, il buon augurio del presepe, meditazioni tratte dal volume omonimo a cura di Paola Carelli, edizioni Terra Santa, allestimento di Mara Miceli, con la viva voce del Santo Padre.